che sale a Sion, sei il Messia liberatore. Benedetto tu che vieni nel nome del Signore. A te Osanna e Osanna, Osanna ya. A te Osanna e Osanna, Osanna ya. Perché santo, santo, santo, santo, santo è il tuo nome. Santo. Hai fatto cieli e terra e vedremo la tua gloria. A te Osanna e Osanna, Osanna ya.